La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato ai 60 anni della prima organizzazione non governativa in campo sanitario riconosciuta in Italia, Medici con l'Africa QAM. Ospite ai nostri microfoni il direttore dell'ONG, Don Dante Carraio. La parola adesso va a Dino Pesole. Quando si parla dell'Africa, in particolare dell'Africa subsahariana, un territorio pari a 2,5 volte l'intera Europa, l'immagine più ricorrente è quella del continente dimenticato. Ed è certamente così, se si considera che seppure con alcune importanti novità che si sono verificate nell'ultimo decennio, stiamo pur sempre parlando di un'area del mondo in cui gran parte della popolazione continua a vivere largamente al di sotto della soglia minima di sussistenza. Un continente, quello africano, che a partire dagli anni 60, da quando cioè buona parte dei paesi ottennero l'indipendenza, è sconvolto periodicamente, come sappiamo, da genocidi, massacri, compiuti in nome di pulizie etniche, scontri tribali tra opposte fazioni che si contendono il potere. Proprio in questi giorni si celebrano i 60 anni della prima organizzazione non governativa in campo sanitario riconosciuta in Italia, Medici con l'Africa QAM, nata con lo scopo di fornire assistenza sanitaria alle popolazioni più bisognose dei paesi in via di sviluppo. Nel corso della sua recente visita a Padova, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rievocato così l'attività pluridecennale di questa organizzazione. Sono qui semplicemente per un riconoscimento e un omaggio e sono qui per ascoltare ben più che per parlare. Innanzitutto il riconoscimento e l'omaggio da tributare e credo di poterlo fare a nome della nazione e delle istituzioni repubblicane a questa straordinaria realtà, a questa straordinaria storia di cui oggi celebriamo il 60° anniversario. E dopo aver incontrato alcuni di voi a Roma, a maggior ragione oggi, credo di poter cominciare a comprendere meglio, anche sfogliando questa pubblicazione, che cosa voi siate, quale patrimonio di generosità, di dedizione, di spirito di sacrificio sia stato accumulato in 6 decenni dai Medici con l'Africa. Anche questa, per fortuna, è l'Italia e non dobbiamo mai dimenticarcene quando ci interroghiamo sulla nostra condizione di oggi e sul nostro futuro. Era il 3 dicembre del 1950 quando venne firmato a Padova l'atto di fondazione del Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, il QAM. L'iniziativa fu del professor Francesco Canova e del vescovo di Padova Girolamo Bortignon. Tra il 1954 e il 1960 partono i primi 54 medici. La destinazione è quasi sempre un paese sotto il dominio coloniale, un'attività che si svolge in prevalenza presso ospedali gestiti da missionari. La svolta avviene negli anni 60, quando quasi tutti i paesi africani conquistano l'indipendenza. Papa Giovanni XXIII emana l'enciclica Pacem in Terris e convoca il Concilio Vaticano II. Kennedy e Khrushchev intraprendono la via della distensione. In tale rinnovato contesto geopolitico, il QAM intensifica la sua attività in Africa. L'obiettivo di allora è quello di oggi, arrestare un genocidio. Sono infatti 4,5 milioni i bambini africani sotto i 5 anni e 265.000 le madri che muoiono ogni anno in Africa. Gran parte di queste morti sono legate alla gravidanza e al parto. Abbiamo in linea il direttore di Medici con l'Africa QAM, Don Dante Carraro. Grazie, prima di tutto, e buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci parli un po' dei 60 anni di questa organizzazione? Partirei proprio citando un dato. È interessante sottolineare come questi 60 anni di vita dell'organismo si sono dipanati con un lavoro lungo, de- dedicato all'Africa, all'Africa subsahariana, di 4.350 anni spesi attraverso 1.300 operatori che si sono spesi in media per 3 anni e 4 mesi ciascuno. Ecco, abbiamo gestito 214 strutture sanitarie, 38 di queste ristrutturate o costruite dal nulla e attrezzate. Un altro dato di questi 60 anni credo che sia interessante, anche quello che evidenzia come i volontari di Medici con l'Africa QAM, che sono partiti nei vari anni, provengono da 19 regioni su 20 e da 93 province su 110, quasi a sottolineare come attorno al grande valore della solidarietà internazionale ci sia anche questa rete di unità nazionale sottostante, sottesa, ecco, magari invisibile, ma che esiste e che c'è. Noi all'inizio della nostra trasmissione oggi abbiamo rievocato l'immagine dell'Africa quale il continente, il grande continente dimenticato. Io lo chiamo uno sterminio silenzioso. I dati sanitari con tanta fatica, con tanti sforzi sono anche migliorati, però non c'è alcun dubbio che ancora oggi 4 milioni e mezzo di bambini sotto i 5 anni, soprattutto neonati, entro il primo mese di vita, quindi muoiono ogni anno in Africa subsahariana, e sono dalle 250 ai 300.000 mamme che perdono la vita dando alla luce i loro figli. Ecco, io credo che questa sia un'ingiustizia profonda, radicale, nascosta e silenziosa, ed è per questo che è una sfida dura e continua a esserlo per noi, perché quasi non fa scandalo, ecco, quasi non smuove coscienze, intelligenze. Lo dico perché sono anche questi bambini, ma anche penso alle mamme, sono patologie facilmente debellabili con poco, ed è per questo che vogliamo alzare la voce, se si potesse, con molto rispetto, con molta discrezione, ma quasi scuotere, ecco, le coscienze di fronte a tutto questo. Eh sì, perché evidentemente il problema è talmente grande che certamente la pur grandiosa e meritevole opera di Medici con l'Africa QAM, ma non può riuscire a scalfire una situazione così drammatica. Io su questo vorrei lanciare un segnale che motiva anche razionalmente la nostra azione. I risultati ci sono, i risultati vengono e sono dimostrabili, positivi. Insomma, noi abbiamo mollato, siamo usciti dal Kenya, non lavoriamo più in Ruanda, in Uganda stiamo concentrando l'azione in una delle zone più, in Karamoja, che è una delle zone più, diciamo così, bisognose, ma su altre, in altre, da altre regioni, da altre aree del paese siamo usciti. E perché siamo usciti? Perché gli indicatori sanitari sono migliorati. Questo lo dico appunto per dire che è vero che quello che abbiamo davanti è una marea impetuosa e travolgente. È pur vero che lavorando con tenacia, lavorando con serietà, con competenza, con professionalità, i risultati vengono, coinvolgendo le autorità locali, i partner locali, formando personale locale, così come stiamo facendo in molte aree, motivo per cui per esempio stiamo riducendo l'intervento in questi paesi, stiamo pensando, abbiamo aperto il lavoro da 4 anni a questa parte in Sud Sudan, faremo una missione in Sierra Leone il prossimo gennaio, ecco, aprendo altri situazioni dove invece la situazione sanitaria continua a essere o si è aggravata a causa di tanti motivi. Ecco, un segnale anche positivo che secondo me è doveroso e importante dare. Il segnale positivo che anche il presidente Napolitano ha evocato e raccolto nel suo intervento a Padova la scorsa settimana, quando ha parlato appunto di alcuni importanti novità positive che grazie alla vostra opera quotidiana, alla vostra fatica, si stanno realizzando. Come avete accolto questo apprezzamento del presidente Napolitano? Ci ha commossi e onorati, ecco, perché credo che il presidente, usando anche le le parole che ha usato, cioè dice, e credo di poter fare questo omaggio, questo riconoscimento a nome anche della nazione e delle istituzioni repubblicane. Ecco, credo che abbia riconosciuto il coraggio di chi non si arrende. Credo che il presidente stesso abbia riconosciuto in questa storia uno stile, un modo di approcciare i problemi. E il nostro nome, QAM, Medici con l'Africa, identifica proprio questo stile, questo approccio. Noi non ci chiamiamo medici per l'Africa, ma ci chiamiamo medici con l'Africa, no? Molte grazie, Don Dante Carraro, e tanti auguri e complimenti per la vostra attività. Grazie, grazie di cuore a lei e a tutti gli ascoltatori. Se posso lanciare un ultimo messaggio, ecco, noi abbiamo lanciato questa campagna che si rivolge alle mamme e ai bambini, e l'invito è anche questo: proprio in questi giorni, se gli ascoltatori, qualcuno desidera anche sostenerci con un SMS molto semplice, digitando il 45592, 45592, ecco, sostenete, aiutate anche questa nostra sfida che è gravosa ma anche esaltante.